la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta in questo giovedì 17 di aprile alle 16.35, 35 secondi, siamo in diretta dagli studi Radio 24 di Milano, ieri eravamo da Roma, oggi siamo tornati alla nostra base di riferimento. Vado subito al tema del giorno per invogliare, come sempre capita, qualcuno a chiamarci all'800 24 00 24 per dirci cosa ne pensa del tema del giorno. Vedrete che parleremo di una novità, di una notizia che da stamattina presto ha scosso le fondamenta di molti colleghi che da mesi vi raccontavano che c'era una trattativa oramai già tutta definita, fatta, praticamente arrivata, per cui la compagnia emiratina di Abu Dhabi, per essere precisi, Etihad, faceva un'offerta tra il 40 e il 49% di Alitalia, si accollava il futuro dello sviluppo di Alitalia. Alcuni di noi, io tra quelli, hanno continuato a dire bah, veramente ci risulta una cosa un po' diversa, perché Etihad chiede grande chiarezza sul taglio dei costi che rimangono troppo elevati per Alitalia, quindi anche esuberi, alcuni migliaia di esuberi ancora, nonché sull'eccesso di debiti. L'esposizione concentrata soprattutto per l'Italia in Intesa e Unicredit, tra i 400-500 milioni che loro non intendono accollarsi, e altre cose. E quindi chi di noi, pochissimi, hanno continuato a dire guardate che non è per niente tutto definito, perché Etihad, che ha un amministratore delegato che si chiama Hogan, non ha l'anello al naso, oggi pare proprio che avessimo ragioni noi minoritari, perché Etihad ha mandato una lettera un po' raggelante dall'Italia, niente di nuovo per chi segueva la faccenda, cioè gli rimesso per iscritto tutti i problemi che non sono ancora risolti, per così dire, però l'informazione italiana, in larghissima parte, dava tutto per risolto, e quindi affronteremo questa questione. Diteci cosa pensate, pensate che comunque arrivano gli arabi e ci salvano senza guardare i conti e i debiti, o cosa pensate di quello che hanno fatto i privati che hanno tutto sommato fallito come lo Stato prima? Vi ricordate che nel 2008 abbiamo dovuto salvare la compagnia, sì, affidandola a privati, ma accollandoci circa 6 miliardi tra una cosa e l'altra, noi come contribuenti, mettendo insieme tutto ciò che serviva come agevolazione per quella operazione, se non che il piano Fenice di quella all'Italia non si è rivelato all'altezza, perché sono arrivati a perdere i famosi capitani coraggiosi 1,5 milioni al giorno, ed eccoci qua al fallimento anche dei privati. Non bisogna usare la parola tecnica fallimento, ma in parole povere sì, perché si erano mangiati 1,5 miliardi di capitale iniziale del 2008 malgrado l'aiuto pubblico, e ancora una volta adesso è il governo di mezzo, perché da stamattina il ministro Lupi pare che sia a telefono con gli Emirati per dire ma come, ma no, perché il ministro Lupi ha sempre detto no, ma non c'è problema, la trattativa è fatta, è quasi tutto risolto. Maroni, oggi il presidente della Lombardia, che pone una condizione, secondo me sbagliata, ma lo vedremo, per l'accordo in relazione al rilancio di Malpensa, ha telefonato a propria volta a Lupi e ha detto no, ma Lupi ci dice che non è così raggelante la cosa. Insomma, vedremo tra poco. Intanto però, prima di presentarvi i nostri ospiti, una parola sempre per Roma, perché una parola di solidarietà, voglio dirlo, perché ci siamo più volte occupati, ancora l'altro ieri qui con una sindacalista dell'ATAC, dei problemi della finanza pubblica a Roma, delle municipalizzate partecipate di Roma. Voglio esprimere solidarietà all'assessore al bilancio Daniela Morganti, che è stato messo alla porta dal sindaco Ignazio Marino, perché l'assessore Morganti, secondo me correttamente, dopo il Salva Roma voleva fare tagli di spesa, voleva razionalizzare le municipalizzate, insomma, prendeva sul serio la necessità di dare una svolta al debito che continua a formarsi a Roma, perché Roma ha più di 5 miliardi di euro l'anno di spesa corrente e si formerà, dice l'agenzia di rating Fitch, nuovo debito per 2,5 miliardi entro altri 2 anni. Però il sindaco, di fronte al piano di tagli dell'assessore Morganti, ha deciso di cambiare l'assessore, non di fare i tagli. Secondo me è sbagliato, ma è la stessa cosa che è avvenuta in Sicilia, ce ne siamo occupati la settimana scorsa con Crocetta, che ha messo alla porta l'assessore al bilancio Bianchi, che anche lui voleva fare i tagli seri, e la stessa cosa che è accaduta a Napoli con De Magistris, che ha messo alla porta l'assessore Realfonso, che voleva fare i tagli seri. Se questa è l'Italia nuova, secondo me questa è l'Italia vecchia. Poi sapete come va a finire, che i cittadini romani hanno già il massimo di ogni aliquota, dalla casa all'occupazione del suolo pubblico, dai diritti di affissione, eccetera, eccetera, e in tutto questo però si creeranno le nuove condizioni per altri interventi di salvataggio centrale. Io sono contrario, penso che bisogna cambiare strada, mi duole molto che il sindaco Marino sia così renitente. Vediamo poi se le cose vanno così. Ma andiamo al tema del giorno. Innanzitutto, chi è che ha tirato fuori la notizia di questa lettera diversa da quanto ci si aspettava? Non io, non altri minoritari come me, ma insomma i più dell'informazione italiana si aspettava questa lettera di Etihad dall'Italia che diceva tutto risolto. L'ha tirato fuori il Messaggero, per restare sempre a Roma, ed è quindi con noi il vice direttore del Messaggero che ci spiega come qualmente la notizia è arrivata a loro e in che consiste questa frenata di Etihad. Buon pomeriggio Osvaldo De Paolini. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, questa lettera, sorpresa, in che consiste? Etihad a cosa dice no? Allora, l'attesa era per una lettera che dicesse: abbiamo valutato il materiale che ci avete proposto e secondo noi per chiudere il matrimonio è necessario che si ritocchi l'organico, che si ristrutturi il debito con le banche, che noi si riceva una manleva per quel che riguarda le posizioni passate di Alitalia e che ci sia la liberalizzazione imposta dal governo per quel che riguarda gli scali nazionali. La verità è che è arrivata una lettera diversa ieri sera tardi, noi ne abbiamo preso di questa lettera soltanto attorno alle 11, tanto è vero che ce l'abbiamo nell'ultima edizione, la notizia non siamo riusciti a metterla nella prima edizione naturalmente, e questa lettera dice: noi un mese e mezzo fa vi avevamo chiesto il taglio degli organici in questi termini, la ristrutturazione del debito in questi termini e via quattro punti essenziali che abbiamo elencati prima, poiché voi non ci avete dato sufficienti garanzie per credere che si possa proseguire un percorso di crescita comune, la risposta nostra è: non ci sono le condizioni per questo matrimonio. Questa è la lettera. Ma è una lettera, Osvaldo De Paolini, di fronte al quale essere sorpresi o non fanno altro che ripetere quello che hanno detto in tutta la trattativa? Allora, da quello che risulta a noi, effettivamente loro sono stati, nonostante la caratteristica levantina di trattative che vengono condotte da appunto esponenti medio orientali, però ricordo sempre che coloro che trattano sono anglosassoni, sono appunto, come ricordavi tu Oscar, l'amministratore delegato, il CEO di Etihad è un inglese americano, Hogan, e quindi con grande precisione avevano detto: noi per poter andare avanti abbiamo bisogno delle garanzie su questi punti. È stata ripetuta questa litania per circa un mese e mezzo e alla fine evidentemente si sono convinti che le risposte che ricevevano non erano mai convincenti, ma è anche comprensibile perché il governo, prima di dare una garanzia su questo fronte, sul fronte degli scali, deve pensarci due volte. Le banche stesse, prima di cancellare, pensare di ridurre un debito che ormai è diventato per svariate centinaia di milioni di almeno 500 milioni come chiedevano, ci pensano due volte. Insomma, cioè la situazione era molto complicata e infatti io sono rimasto molto sorpreso che sia il ministro Lupi che alcuni banchieri già due settimane fa avessero detto: domani arriva la lettera, e poi hanno ripetuto per due settimane questa litania. In realtà la lettera è arrivata, ma era esattamente di segno opposto rispetto a quella che si aspettavano. Devo dire che noi non siamo rimasti sorpresi, perché noi eravamo tra i pochi giornali che mettevano in dubbio che si potesse arrivare entro breve tempo ad un accordo, però nemmeno io personalmente mi aspettavo una cosa tranciante di questo tipo. E a questo punto, Osvaldo De Paolini, siccome insomma sono tanti anni che navighi, senti banchieri eccetera eccetera, siccome Intesa, tanto per essere chiari, non è che ha proprio un ruolo secondario rispetto a l'altra compagine, il resto della compagine Capitani Coraggiosi, che si è molto frazionata tranne la IMS di Colaninno, però Intesa è un pochino la controparte del governo che è stato molto implicato in questa trattativa. Tu cosa ti aspetti? Ma allora, sicuramente il governo tenterà a dire: guardate che non è una rottura, diciamo che è una lettera molto dura, dirà sicuramente Lupi, io me l'aspetto già in serata, ma ci pongono delle condizioni sulle quali dobbiamo riflettere, ma la rottura non c'è. Questa è la posizione del governo, naturalmente non può accettare un no secco così come l'abbiamo posto noi, perché insomma vuol dire che la politica condotta in questi, cioè la trattativa condotta dal governo in queste settimane, in questi mesi, è stata fallimentare, non la metterebbe mai. Quindi noi ci aspettiamo che il governo dica non si è ancora chiuso, naturalmente le condizioni che ci pongono sono molto, molto dure, rifletteremo, cercheremo nelle prossime settimane di riallacciare contatti. Le banche, in particolare Intesa, Intesa è molto esposta nella vicenda, molto esposta anche sul piano dell'immagine, sul piano della reputazione, perché come giustamente ricordavi tu, fu proprio Intesa ad avviare l'operazione Fenice che poi ha portato alla formazione dell'accordata di Capitani Coraggiosi. Intesa è molto impegnata, quindi su due fronti, anche Intesa tenterà in qualche modo di ricucire, anche perché francamente da quello che mi risulta alternative ad Etihad non ci sono in questo momento, né l'Euroflot, né i cinesi, né altre compagnie arabe si sono proposte in modo tale da rendere credibile la loro offerta, quindi francamente tenteranno di tutto per salvare questa trattativa a condizioni secondo me fin troppo vessatorie, sebbene tu ritieni che questa compagnia abbia, si sia mangiata molta credibilità agli occhi degli italiani in questi anni, io continuo a pensare, forse sono anch'io tra i pochi, che tutto sommato non avere una compagnia una compagnia aerea che in sostanza porti l'Italia nel mondo, francamente mi pongo qualche riflessione. Per cui la mia speranza Ho capito la speranza tua è che vada in porto. La mia opinione è che siccome non hanno saputo stare sul mercato internazionale aereo né prima lo Stato per tanti anni e né purtroppo questi privati, che poi per stare sul mercato devi stare sul mercato del lungo raggio dove si fanno i veri margini, e i Capitani Coraggiosi hanno sbagliato il piano, perché poi sono esattamente i velivoli a lungo raggio che pure potevano prendere dalla dote che avevano di velivoli dalla compagnia presa da Toto, e quella che dava il lease e aveva gli ordini incorporati degli aerei a lungo raggio, non hanno potuto prenderla perché non facevano margine nel frattempo per poi pagarli gli aerei. Allora la mia idea è che anche con Etihad si tratta semplicemente di prendere atto del fatto che si abbandona l'idea di essere un vettore mondiale. Con Etihad si fa affideraggio verso Abu Dhabi, come tutte le altre compagnie in cui Etihad, come Air Berlin in Germania, prendono quote di minoranza. E poi naturalmente si prende atto di una cosa, cioè che il mercato aereo in questi anni è cresciuto tantissimo in Italia, malgrado all'Italia, per così dire. Comunque grazie a Osvaldo De Paolini e ai colleghi del Messaggero che hanno fatto questo bello scoop e che ha il doppio pregio anche di dare un po' di pista a tutti quelli che seguono un po' troppo le veline delle banche nel nostro paese. E adesso abbiamo, salutando Osvaldo De Paolini, l'informazione stradale, e poi ci porremo proprio il problema: ma cosa succede nel mercato del trasporto aereo italiano? È proprio vero che senza l'Italia i passeggeri italiani vanno nei guai? La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, 16:48, primi 57 secondi. Per rispondere adesso alla domanda conseguente, vista questa sorpresa negativa che Etihad mette nuovi freni, altro che si prende all'Italia e la ridirige nei cieli del mondo e così via. Però la domanda è: cosa è successo in questi anni, mentre c'era il fallimento prima dell'Italia pubblica e poi il fallimento di fatto, con tutte queste perdite dell'Italia anche privata dal 2008 e poi, malgrado il grande aiuto pubblico messo sulle nostre spalle, ripeto, almeno 6 miliardi ci è costato di aiuti ai Capitani Coraggiosi privati messi in piedi da Intesa, ma nel frattempo il mercato aereo italiano perdeva o guadagnava? E se guadagnava grazie all'Italia o malgrado all'Italia? Ecco, con noi per rispondere a queste domande è Andrea Giuricin, che è fellow dell'Istituto Bruno Leoni, che scrive regolarmente dei paper. L'ultimo che ha fatto è l'Italia, la privatizzazione infinita, quello è un libro in realtà, ma ha fatto anche proprio un paper recentissimo, quasi in vista di questo sviluppo di oggi, in cui mette un bel po' di cifre in fila, che gli chiedo di riepilogare, su che cosa è successo agli aeroporti italiani, al traffico aereo italiano, malgrado i guai persistenti di Alitalia. Buon pomeriggio e grazie Andrea Giuricin. Buon pomeriggio. Allora, il mercato è cresciuto e di quanto in questi anni in Italia? Il mercato è cresciuto estremamente, di fatto si è avuto un raddoppio dal 1997, anno della liberalizzazione europea, ad oggi c'è stato più di un raddoppio del numero di passeggeri. Questo nonostante Alitalia, come dicevi tu prima, Oscar. Alitalia ha più o meno sempre lo stesso numero di passeggeri dal 2000 ad oggi, ma il mercato praticamente è cresciuto da circa 60 milioni a quasi 120 milioni di passeggeri l'anno. Quindi tutta la differenza in realtà è stata fatta da nuove compagnie grazie alla liberalizzazione, soprattutto le compagnie low cost come Ryanair e EasyJet, che sono ormai secondo e terzo operatore in Italia con il 20% e l'11% della quota di mercato. Dicono tanti però che questo è avvenuto, dicono i nostalgici del vettore nazionale, eccetera, eccetera, perché le low cost sono aiutate dagli aeroporti, dai sussidi pubblici anche loro, sono molto furbe, e che quindi questa cosa in realtà è una specie di finta liberalizzazione, una maniera solo per aiutare grandi gruppi internazionali rispetto al vettore nazionale e così via. Quanto c'è di vero secondo te? Allora, sicuramente c'è un problema di sussidi pubblici, ma i sussidi pubblici da aeroporti pubblici. Finché un aeroporto è privato e decide di fare degli sconti a Ryanair, è un accordo fra privati per cercare di sviluppare il traffico. Quando è un aeroporto pubblico è fesso il chi gestisce questo aeroporto pubblico che dà dei soldi ad un operatore privato, in cambio chiaramente di traffico sull'aeroporto. Detto questo, bisogna tenere conto che il business delle low cost è completamente differente. EasyJet di fatto utilizza aeroporti primari, quindi non ha sicuramente sussidi pubblici di questo tipo. Ryanair, che è quella più messa in discussione, sta cominciando a utilizzare aeroporti primari anche lei, ha iniziato con Roma Fiumicino e con Bruxelles Zaventem, quindi sta cambiando il proprio sistema di business, ma non è l'unico modo dove risparmiano le compagnie low cost. Chi dice questo non ha mai visto un bilancio delle compagnie low cost. Una compagnia low cost utilizza la stessa tipologia di aeromobile per cercare di avere dei costi di manutenzione inferiori e soprattutto a degli aeromobili nuovi, in media più o meno 3 anni l'età media della flotta di Ryanair e EasyJet contro i 7-8 anni o anche 10 delle altre compagnie, per avere minori costi anche di carburante che incidono per il 35% dei costi totali di una compagnia aerea. Quindi chi parla solo di sussidi in realtà vuol dire che non ha mai visto un bilancio di una società aerea. Allora, intorno a questo accordo con Etihad c'è una questione che riguarda, posta con grande energia da Maroni, il governatore leghista della regione Lombardia, che riguarda il polo degli aeroporti lombardi, in particolare Linate e Malpensa. Quando si fece la compagnia dei compaitani coraggiosi, per aiutarli, tra le tante cose pubbliche di aiuto, si mise un limite antitrust di concorrenza sulla tratta Roma-Milano a loro favore, ignorando il fatto che avrebbero perso comunque traffico a vantaggio dell'alta velocità. Adesso la questione è diventata diversa, siccome Malpensa ha sofferto tantissimo il de-hubbing perché l'Italia non aveva più i soldi, si è riconcentrata sul Fiumicino, Maroni dice: io sono favorevole a un qualunque accordo a patto che il governo mi tuteli Malpensa rispetto a Linate, mentre Etihad chiedeva invece di avere mano libera proprio perché Linate continua ad avere un suo traffico, una sua importanza sia business che rispetto alla vicinanza di Milano. Allora, su questa questione qui, ha senso ancora che la politica intenda Malpensa e Linate come basi comunicanti se metto un limite da una parte? C'è stato messo un limite alle tratte orarie, per esempio, a quanti voli per ora possono originarsi e arrivare su Linate, proprio per favorire Malpensa. Non ha funzionato. Perché la politica continua a ragionare così? È giusto? Ha senso? Oppure quello che ci dice i numeri dei flussi di aumento di alcuni scali italiani rispetto ad altri ci indicano che la soluzione è un'altra, Giuricino? Allora, innanzitutto la politica non deve assolutamente mettere becco su questa questione, ha già dimostrato di fare abbastanza danni, a mio parere. Detto questo, il limite di Linate di 18 movimenti orari è stato messo dalla Bersani bis quando si parlava dell'alleanza fra Alitalia e KLM. Stiamo parlando del secolo scorso, proprio del secolo scorso, e questa praticamente questa alleanza doveva far sì che Malpensa diventasse l'hub, cioè diventasse l'aeroporto di riferimento per questa nuova compagnia che diventava la più importante in Europa per numero di passeggeri, e creava un sistema di hub and spoke su Milano-Malpensa. È saltata questa alleanza. Uno dei tanti matrimoni falliti. Di fatto, a causa di questo problema di alleanza, Malpensa non è mai riuscita a svilupparsi, ma non è mai neanche riuscita a prendere nuovo traffico perché non c'era più una compagnia di riferimento. Cioè, un hub esiste solamente se esiste una compagnia di riferimento. Su Malpensa nessuna compagnia di riferimento. Quando si parla di Alitalia che può fare un danno se abbandona Malpensa, stiamo parlando di poco più di 1 milione di passeggeri dei 18 milioni che trasporta Malpensa contro i 7 milioni ad esempio di EasyJet. Quindi siamo totalmente fuori luogo, la politica sta mettendo becco laddove non dovrebbe metterlo più. Diciamoci allora una amara, ma secondo me chiara verità: Il problema è che è sbagliata la proprietà di Linate e Malpensa nelle stesse mani pubbliche, forse metterli in concorrenza e consentire a Malpensa di attirare vettori diversi e più traffico e consentendo di tornare a fare di Linate un aeroporto con, senza questi limiti orari di voli, potrebbe, come dimostra l'esperienza di Oliver Serio, dare possibilità di crescita diverse da quelle che non hanno avuto con i limiti pubblici a entrambi o no? Esattamente, e questo è quello che sostenevamo anche nel paper dell'Istituto Bruno Leoni, cioè innanzitutto sarebbe meglio a questo punto metterli in concorrenza, cioè senza una compagnia che abbia le capacità finanziarie di investire 4-5 miliardi di euro per creare un sistema di hub and spoke su Malpensa, tanto vale a questo punto metterli in concorrenza i due aeroporti, un po' come ha fatto Bergamo, che è stato bravissimo, è diventato il quarto aeroporto italiano, si sta avvicinando lentamente verso i 10 milioni di passeggeri. Ed è un caso sicuramente di successo, ha preso spunto e diciamo grazie lo sviluppo grazie a Ryanair, Malpensa si sta sviluppando grazie a EasyJet e le compagnie tradizionali vogliono investire su Linate. Se lasciassero lo spazio come movimenti orari, si togliesse questo limite di legge che serviva, ricordo, a favorire la vecchia Alitalia all'inizio degli anni 2000, ci sarebbe molto anche, probabilmente più spazio su tutto il resto. Allora, io è solo un contributo per farvi diffidare di quello che leggete, del fatto il vettore ci vuole, aiutiamolo ancora, vi diranno che bisogna mettere ancora mano ad aiuti. Non è così, la storia di Orio al Serio dimostra che si può fare di meglio senza questi limiti, e attenzione, neanche ad Abu Dhabi hanno gli anelli al naso e non si beccano le perdite e i debiti di chi fallisce in Italia. Continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani. We'll be right back.